Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Lukupelu Cosmas, consulente aziendale di Ndola nel nord dello Zambia, ci conduce con la sua macchina nelle zone minerarie attorno alla città di Luansha. È sera, le sagome delle montagne create dal materiale di scavo si stagliano contro il cielo blu scuro. Siamo nella Copper Belt, nord dello Zambia, una delle zone più ricche di rame a livello mondiale. Qui è l'Ale Township, le abitazioni degli operai e delle loro famiglie. Le strade sono buie, non c'è praticamente illuminazione. C'è molta disoccupazione, ci racconta Lukupelu Cosmas, molte miniere sono oramai chiuse. I cinesi sono venuti, ne gestiscono alcune, ma hanno portato i loro operai che vivono isolati in alcuni quartieri appositamente costruiti. Nelle strade poche macchine, qui i salari permettono a pochi di possedere un'auto. Lungo la strada molta gente, giovani, donne, famiglie che rientrano a casa a piedi dal lavoro, dalla scuola, dal mercato. Zambia, paese povero, figura al 166° posto negli indici di sviluppo delle Nazioni Unite. Densità bassa, 10 milioni di abitanti, per una superficie grande quanto due volte l'Italia. Paese flagellato dall'AIDS, ma paese stabile. L'ex Rhodesia del Nord è diventata indipendente nel 64 sotto la guida di Kenneth Kaunda, uno degli eroi della lotta di liberazione dell'Africa. Da sempre, malgrado politiche che hanno fatto registrare qualche successo nella socialità, ma anche molti fallimenti economici, deve fare i conti con una certa corruzione degli organismi statali. Dicevamo comunque paese stabile, qui alla frontiera di stati turbolenti come lo Zimbabwe e soprattutto il Congo, l'Angola, non si registrano conflitti e la convivenza tra le 70 etnie è considerata esemplare. Il paese punta sul turismo, a cui offre splendidi parchi nazionali, ma soprattutto sull'esportazione di materie prime quali il cobalto e per l'appunto il rame, da cui trae l'80% degli introiti da esportazione. Incontriamo Modest Agawe nella città mineraria di Kitwe. Lui lavora per la Concola Copper Mines della multinazionale indiana Vedanta. Sì, è un lavoro pesante, però sono abituato. So bene cosa devo fare e alla fine non è più un lavoro durissimo. Le condizioni lavorative. Beh, ora lavoro nella nuova miniera, con le nuove installazioni e posso dire che è ok. C'è meno inquinamento, ci sono meno emissioni nocive rispetto alle vecchie miniere. Ma cosa ne pensa della presenza cinese qui? Fa molto discutere, in positivo ma anche in negativo. I cinesi vengono qui, sì, hanno molti soldi, investono qui, ma alla fine della giornata, se guardiamo la soddisfazione di chi ha assunto, beh, il risultato è negativo. D'altra parte sono molto bravi nell'acquistare miniere abbandonate e impianti obsoleti e nel fare ripartire il tutto. Però, come detto, non offrono buone condizioni di lavoro e oltretutto portano i loro operai dalla Cina. Gli indigeni li assumono invece con contratti determinati, 6 mesi, 1 anno. Questo è il problema con i cinesi. Modesta Gawi ci racconta di rapporti quotidiani non facili tra la popolazione locale e gli stranieri. Gli investimenti stranieri e le privatizzazioni non hanno risolto il problema dei posti di lavoro. La disoccupazione è molto alta, 50% nel paese se si prende in considerazione anche l'economia informale, ma 80% se ci si basa su dati ufficiali. La quasi monocultura da materia prima non mette al riparo da crisi, anzi, basta un